il comunismo, dicono, è morto. Ma il suo fantasma continua ad aggirarsi per l'Europa, come a voler confermare 157 anni dopo la straordinaria intuizione dei suoi primi teorici. Revocarne la presenza incombente non sono di solito i dannati della terra, i poveri, gli oppressi, i perseguitati, che in quegli ideali potrebbero ancora trovare, come tante generazioni di sfruttati prima di loro, una speranza di riscatto personale e sociale. No, ne parlano molto di più i loro antagonisti, gli sfruttatori, che come ammoniva Brecht il comunismo non possono intendere, o comunque quanti nello stato di cose presente si trovano del tutto a proprio agio. Dalla frequenza e dall'ansiosa preoccupazione con cui costoro s'ostinano a evocare il nemico vinto, non si direbbe in realtà che siano così certi della propria vittoria. Silvio Berlusconi, che quanto minacciose evocazioni del comunismo non è secondo a nessuno, lo si è visto anche ieri al convegno milanese in lode di Bettino Craxi, ha scelto, per abbandonarsi una volta di più a questa personale ossessione, la meno opportuna delle circostanze. È andato ad Auschwitz per la giornata della memoria. Invece di approfittare dell'occasione per riflettere sulle corresponsabilità del suo e nostro paese nella tragedia che quel nome rinchiude, come hanno fatto ciascuno per la sua parte il cancelliere Schroeder e il presidente Chirac, si è soffermato, sembra incredibile, sulle colpe di Pol Pot. Il quale Pol Pot è senza dubbio un triste figuro, ma è ovvio che con Auschwitz non c'entra in nulla, ed è stato tirato in ballo soltanto perché il Silvio aveva appena affermato che alle nuove generazioni tocca il dovere della memoria, perché non si possono mai più ripetere situazioni come quelle che si sono verificate sia con il nazismo sia con il comunismo, e poi gli serviva un esempio di comunista abbastanza efferato da citare in quel contesto, per cui senza pensarci troppo ha scelto lui, che è una scelta, ne consentirete, ben singolare, perché il dittatore cambogiano ha perpetrato i suoi crimini in pieno accordo con i paesi occidentali, Stati Uniti in testa, Italia al seguito, che ne riconoscevano e appoggiavano il governo in odio a quello filo-vietnamita vicino all'Unione Sovietica, a dimostrazione del fatto che di fronte agli interessi della Realpolitik non c'è atrocità che conta e che delle prediche che vengono da certi pulpiti è sempre bene diffidare. L'equiparazione tra nazismo e comunismo, naturalmente, è il tipico luogo comune di un certo pensiero pseudoliberale e si giustifica di solito con il fatto che anche il regime sovietico è stato responsabile dei spaventosi eccidi di massa. Non tutti concordano, gli storici in particolare sono abbastanza divisi, ma visto che per paragonare tra loro due sistemi tanto complessi ciascuno prende in considerazione solo gli aspetti che fanno comodo a lui, è difficile che accordo possa esserci. Un giudizio simile a quello di Berlusconi, per esempio, si ritrovava anche nel messaggio che ad Auschwitz ha fatto pervenire il Papa, ed è largamente condiviso da molti polacchi. Lo avrà fatto proprio forse qualcun altro dei 50 capi di Stato e di Governo convenuti per l'occasione, ma la grande maggioranza se n'è decisamente astenuta, e si capisce. La logica di fondo della commemorazione, il motivo stesso per cui si è proclamata una giornata della memoria, sta nella considerazione dell'unicità storica della Shoah, nel carattere assolutamente eccezionale di quell'evento, del suo non potersi ridurre ad alcun'altra esperienza che l'uomo nel corso di una storia in cui non sono mancate le tragedie ha vissuto. È un'ipotesi da cui si può dissentire, naturalmente, io per esempio non credo di essere completamente d'accordo, ma è un'ipotesi, l'ipotesi è questa, e qualsiasi comparazione più o meno fondata o giustificata da questo punto di vista non può suonare altro che riduttiva. L'accenno alle responsabilità parallele del comunismo, comunque lo si voglia giudicare, e in quell'occasione era altrettanto inopportuno di quanto sarebbe stata un'allusione alla tragedia palestinese. Che Berlusconi non abbia un gran senso dell'opportunità non è un mistero per nessuno, ma anche a uno come lui avrebbe potuto venire in mente un altro motivo più banale per tenere a freno le sue pulsioni. E nessuno è autorizzato a dimenticare che il campo di Auschwitz-Birkenau fu liberato il 25 gennaio 1945, 60 anni fa, dalle truppe sovietiche. E qualsiasi opinione si possa nutrire su quelle truppe, sul regime che le esprimeva, è poco ma sicuro che senza il sacrificio dei soldati e dei popoli dell'Unione Sovietica, il nazismo in Europa sarebbe durato ancora un bel po'. Il che può aprire una serie di riflessioni abbastanza difficili, su cui è troppo sperare che si cimenti uno che s'accontenta sempre e comunque degli effetti più plateali e dei paralleli più grossolani. Ma anche di Berlusconi sarebbe lecito sperare che nella giornata della memoria non dimostri una così clamorosa smemoratezza.